Siamo partiti che erano le 9 e ho capito subito che sarebbe stata una notte molto lunga. Lei ha acceso il navigatore e ha impostato il suo indirizzo di casa, a Milano. Sullo schermo sono apparsi la distanza e l'ora, come fossero una sentenza. Chilometri all'arrivo 774, orario previsto ore 4:37 del mattino. Io sono qui, di Matteo Caccia. Sono le 16:06, è giovedì 18 novembre 2010, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Provate a ricordare un viaggio in auto. Un viaggio in auto che avete fatto con una persona importante. Cercate di ricordare tutti i dettagli di quel viaggio. Dove eravate quando siete partiti? Che tipo di auto era? Chi guidava? Cercate di ricordare la stagione, la temperatura, l'ora della partenza. E poi focalizzate l'attenzione sul viaggio. Vi siete fermati a mangiare. Avete cenato in un ristorante appena fuori dal casello che lui conosceva, perché ci si era fermato un paio di volte. Oppure no. Avete mangiato al self-service dell'autogrill, quello a ponte, sopra l'autostrada, con le macchine che spariscono sotto e poi non le vedi più. Avete fatto benzina e siete ripartiti. È iniziato a piovere e il traffico è aumentato. Poi il cielo si è fatto scuro e avete capito che stava diventando tardi e il viaggio stava finendo. E mentre il viaggio stava finendo, avete realizzato che non volevate che quel viaggio finisse. Perché quella situazione lì, di voi due su un'automobile, tra una città e un'altra, una situazione quasi sospesa tra i chilometri di quelle autostrade, sarebbe stato impossibile da ricreare. E che fossero 200 o che fossero 2000, avete cominciato a sperare che i chilometri non finissero più, che il casello non arrivasse mai, perché un altro viaggio come quello non si può ricreare. Soprattutto però cercate di ricordare come eravate voi quando il viaggio è iniziato e come eravate poi, alla fine, quando siete arrivati a destinazione. Siete saliti su un'auto che eravate in un modo e siete scesi da quell'auto che eravate un po' diversi. Non lo so, forse avete scoperto una persona che non vi aspettavate, forse vi siete innamorati, non lo so. Però poi alla fine, anche se siete rimasti amici, anche se non vi siete sposati, anche se non ci avete fatto dei figli, in auto con quella persona qualcosa è successo, non sapreste nemmeno dire che cosa. Però la strada fatta su quella macchina non la dimenticherete facilmente. Ecco, provate a ricordare quel viaggio in auto e poi raccontatemelo. 800240024 349-238-6666. È arrivato il momento di finire definitivamente. È solo giovedì, ci ho messo 4 giorni a raccontare questo fine settimana. È arrivato il momento di chiudere il fine settimana e di raccontarvi com'è stata la parte finale di quella domenica, e cioè il viaggio di ritorno. È stato un viaggio di ritorno in automobile. A me era già capitato, un'altra volta, non in maniera così forte, però mi era già capitato di fare un viaggio in macchina e di avere quel viaggio impresso nella memoria, di ricordarmi molto bene tutto, l'automobile chiaramente con cui avevo viaggiato, soprattutto la persona o le persone con cui avevo viaggiato, quello che era successo durante quel viaggio, quanto era stato lungo, quanto mi era piaciuto e soprattutto che cosa mi era rimasto quando ero sceso da quell'automobile. 800240024 0024 oppure 349-238-6666. Valgono anche i viaggi in cui avete fatto l'autostop, ad esempio. Tiziano mi raccontava prima di un viaggio che ha fatto da Lisbona a Madrid, che sono 700 km, e l'ha fatto con 4 passaggi, giusto? Con 4 passaggi in 24 ore, saltando da tir, dormendo nei bar e poi prendendo un ultimo passaggio diretto da non so dove fino a Madrid. Oppure c'è un altro viaggio in macchina che mi ricordo sempre, che mi racconta il marito di mia sorella, cioè mio cognato, che ha chiesto un passaggio una volta da Pavia per venire a Milano. Si è fermato una croma. C'è ancora la croma, no? Sì, la Fiat l'ha rifatta, ha avuto questo coraggio. Un tizio con una croma che si ferma e parla poco l'italiano, li carica lui e il suo amico, e questo parte verso Milano e va veloce, molto veloce verso Milano, al punto che loro gli dicono: guarda, noi non è che abbiamo fretta. E poi a un certo punto nello specchietto retrovisore spunta la luce di una macchina della polizia, una sirena si avvicina, accosta, questo sbanda, finisce fuori dalla strada, la polizia lo ferma e lui aveva rubato una macchina. Da allora mio cognato tagliato alla fedina penale sporca, perché è accusato di furto d'auto, ovviamente, perché era in auto con un ladro. Ecco, questa, diciamo, quel viaggio in auto è stato breve, ma lui se lo ricorda molto bene. 800240024 349-238-6666. Prima ho chiesto su Facebook qualcosa riguardo, no, ai viaggi in auto e anche agli amori che nascono in quei viaggi che ti ricordi in maniera particolare. Ed Elisa mi ha scritto: io sono andata solo fino ad Ancona, ma mi è bastato per innamorarmi, solo che eravamo entrambi fidanzati. Nello specifico, ad Ancona, il mio fidanzato si è unito a noi in macchina e da lì in poi il viaggio si è fatto molto meno entusiasmante. Come si è finita la storia, però, è un'altra storia. 800240024 349 238 6666. Stefano: sulla mia vecchia Renault Clio, lungo la Milano-Genova, all'andata ci siamo conosciuti, al ritorno eravamo già fidanzati per la vita, tutto in una notte. Poi, come tutte le cose belle, anche le favole finiscono. Luca invece mi dà una spiegazione del motivo per cui in auto nascono dei legami particolari. Lui dice che è dovuta alla posizione. Mi ricordo di avere letto che è la posizione, cioè uno fianco all'altro, con lo sguardo in avanti, che favorisce il dialogo. Infatti questa posizione toglie imbarazzo e permette di parlare di argomenti che in altri luoghi non trattereste mai. Io non lo so se è grazie o per colpa della posizione in auto. So però che spesso ci sono dei viaggi, che siano brevi o che siano lunghi, che ci lasciano un piccolo segno, che siano amori che nascono oppure no, che siano trasferimenti importanti oppure no. Sono dei viaggi, soprattutto in automobile, che non ci dimentichiamo più. 80024 0024 349-238-6666. Lo dico perché il viaggio che io non mi dimenticherò mai più è andato così. Ormai sono 4 giorni che mi chiedo se sono stato un pavido oppure no. Di fatto, da quando ho iniziato a dire sempre la verità, questa è stata la prima volta che ho detto una menzogna. Ero andato fino a Procida apposta per consegnare una lettera, ma quando mi sono trovato nel posto giusto, a me sembrava di esserci arrivato nel momento sbagliato. D'altra parte, però, anche il contenuto della lettera ormai era stato superato dagli eventi. Cioè, consegnarla domenica sarebbe stato un po' come lanciare sopra Berlino Est migliaia di volantini sulla caduta del muro. Ammetto che questa è stata la volta in cui mi sono trovato maggiormente in difficoltà rispetto alla promessa che avevo fatto. E come sempre è successo nella mia vita, quando mi sono trovato in difficoltà, spesso ho fallito. È un po' come quando gioco a tennis, no? Cioè, se sono sereno, magari riesco a infilare qualche punto. Però, quando comincio a sentire la gara, è finita. Mi viene il braccino molle. Ormai ci ho fatto la pace con questa cosa qua. Cioè, io reggo a fatica la pressione, va così. Ci sono persone che danno il meglio di loro quando sono in difficoltà. Io no. Tutto mi riesce se ho tempo per riflettere, per fare, disfare e rifare ancora. Tant'è. Chiudiamo questo capitolo. Alla fine, domenica è andata così. Quando mi hanno chiesto cosa ci facevo lì, io ho fatto finta di essere un turista. Un turista, volevo visitare l'isola e mi avevano consigliato il signor Vincenzo come massimo esperto della storia di Procida. Nessuno ha avuto da ridire con questa mia teoria. Mi hanno offerto un caffè che non ho bevuto e Vincenzo mi ha tenuto 2 ore a raccontarmi tutto ciò che c'era da sapere su quel posto meraviglioso. Poi, quando stavo per andarmene, Agata mi ha chiesto che programmi avessi. Io le ho detto che niente, che sarei tornato a Napoli e il giorno dopo avrei preso un treno presto per Milano, che alle 4 dovevo essere in radio. Ecco, tutti quanti allora hanno iniziato a dire che era perfetto, che potevo tornare in auto con Nathalie, che anche lei stava tornando a Milano, e che addirittura erano più tranquilli se qualcuno si faceva il viaggio con lei e magari le dava il cambio al volante. Nathalie? Io mi sono girato per capire chi fosse Nathalie, o meglio, per confermare che l'unica Nathalie che poteva tornare a Milano in macchina lì dentro fosse lei, la ragazza della spiaggia, quella con il sorriso regolare. Solo che il suo sorriso lei non l'ha mostrato, ha solo risposto che per lei andava bene, che finiva di preparare i bagagli e che tra un'ora c'era l'aliscafo per Napoli. Nathalie ritornava a Milano dopo una lunga estate a Procida. In aliscafo non abbiamo parlato molto. Lei si è infilata le cuffie dell'iPod e io ho fatto lo stesso, per non sentirmi in imbarazzo. Siamo arrivati a Napoli che erano le 8 di sera. Abbiamo recuperato la sua macchina in un parcheggio. Lì ovviamente, per essere un vero galantuomo, ho quasi lasciato un'ernia per strada, cercando di caricare le sue valigie nel portabagagli. Però, ovviamente, come al solito, ho fatto finta di nulla, per evitare brutte figure. Siamo partiti che erano le 9 e ho capito subito che sarebbe stata una notte molto lunga. Lei ha acceso il suo navigatore e ha impostato il suo indirizzo di casa a Milano. Sullo schermo sono apparsi la distanza e l'ora, come fossero una sentenza. Chilometri all'arrivo 774, orario previsto, ore 4:37 del mattino. Io ho fatto una battuta riguardo alla distanza tra le due città che è caduta nel vuoto e ovviamente ha aumentato il mio imbarazzo. Avete presente quando vi sentite a disagio e la persona che sta con voi non fa nulla per aiutarvi? Ecco, bravi, quella sensazione lì. Appena partiti lei ha acceso lo stereo, ha collegato il suo iPod e una musica che io conoscevo ha riempito la macchina. Io tutto ringalluzzito le ho chiesto se per caso quelli erano i Killers e lei mi ha detto di sì. Ecco, ora, a quel punto, io potevo starmene zitto, giusto? Avevo fatto un punticino. E invece no. Ho voluto cercare di vincere e le ho fatto un'altra domanda. È l'ultimo album, no? E lei, no, è di 7 anni fa. Ho cambiato discorso, le ho chiesto se ascoltava mai la radio e lei mi ha risposto di no, che non l'ascolta mai perché alla radio passano solo musica orribile. Io le ho detto che ci sono delle radio in cui si manda poca musica e si parla tanto. Lei mi ha risposto che la gente che parla tanto non le piace. Io ho incassato e me ne sono stato zitto. Il tutto ovviamente tenendo gli occhi fissi sulla strada, un po' perché lei stava guidando e un po' non so il perché. Siamo usciti da Napoli e ci siamo infilati sull'autostrada che andava verso Roma. Ho capito che Nathalie non aveva molta voglia di parlare, o che semplicemente non le stava particolarmente simpatico. E quindi ho deciso che la cosa migliore da fare era starmene zitto e fare quello che si fa quando in auto non si parla. Guardare fuori dal finestrino. E dopo un tempo lungo quanto una decina di caselli sfilati davanti agli occhi, lei ha abbassato il volume dell'autoradio e mi ha fatto la domanda che io proprio non mi aspettavo. Quindi tu parti da Milano da solo per andare a visitare Procida, eh? A chi la racconti? Ho iniziato a raccontare che eravamo all'altezza di Valmontone. Abbiamo superato Roma, abbiamo proseguito verso Firenze e quando ho finito eravamo ad Orte e lei ha detto che doveva fermarsi a fare benzina. All'autogrill abbiamo fatto il pieno e la pipì. Poi siamo entrati al bar, ci siamo presi un caffè, lei, un Icaro, io. Quello con crudo robiola e rucola. Ci siamo seduti a un tavolo del self-service che tanto era chiuso e mi ha chiesto di vedere la lettera. L'ha guardata senza leggerla veramente. Forse voleva solo controllare che la grafia fosse quella di suo nonno. Poi me l'ha ridata e siamo ripartiti. In auto l'atmosfera è cambiata. Mi ha detto che ero un pazzo, che se gliel'avessero raccontato non ci avrebbe mai creduto. Le ho chiesto se si riferiva alla storia della scatola con le lettere. Lei mi ha risposto di no, della storia di uno che parte da Milano e va a Procida per cercare il destinatario di una lettera vecchia di 50 anni. Poi ha sorriso e mi ha raccontato di lei, finalmente. Mi ha detto che era laureata in storia, che la storia le piaceva perché era la cosa più immateriale che ci fosse nella materia. Che poi però quell'impalpabilità lì l'aveva stufata. Si era messa a studiare cooperazione internazionale in una grande università di Milano. Il master però l'aveva delusa, gli insegnanti sapevano poco e quello che sapevano non lo raccontavano fino in fondo. I suoi compagni di corso sembravano degli ebeti e stavano lì a passare del tempo e che alla fine lo ha mollato ed è partita per l'Africa, da sola. È stata in Burkina Faso, che è il secondo paese più povero del mondo, anche se non sapeva dirmi quale fosse il primo. C'è rimasta 2 mesi e poi è tornata. Mi ha detto che tornare in Italia è sempre bello e difficile, perché tutto ti sembra assurdo e imponderabile, e che quindi a maggio aveva lasciato Milano e se n'era tornata a Procida, nella casa di famiglia, per starci qualche giorno, e invece poi si era fermata 6 mesi. Intanto le avevo dato il cambio al volante. Avevamo passato Firenze, poi Bologna, Modena, Reggio Emilia e stavamo arrivando a Milano. Erano le 4 del mattino e lei non aveva smesso di parlare, sempre guardando fissa la strada di fronte a sé, anche se non stava più guidando. E mentre parlava sembrava sempre più bella. E mentre sembrava più bella io la sbirciavo con la coda dell'occhio. E mentre la sbirciavo lei se ne accorgeva, il suo sorriso si allargava sempre di più. E in un attimo eravamo sotto casa mia. E mentre la salutavo la ringraziavo per il passaggio. E mentre la guardavo che ripartiva già sentivo che mi mancava. Erano le 5 del mattino e io non avevo sonno. Io e il mio migliore amico andammo a prendere la mia ex ragazza in Croazia, a casa sua a Pasqua. Potrà sembrare banale, ma lei non me l'aveva mai permesso. Ero emozionato come un bambino alla vigilia di Natale. Un'ora era durata come un anno. Alex da Trieste. Milano-Lampedusa in jeep, 3 giorni. Tappe a Terracina e a Citrezza, bellissimo, con lei che ora è madre di mio figlio. Lo rifarò in 3, naturalmente in jeep, che ho appena comprato, Angelo. Di ritorno da Amsterdam con una Fiat Regata nel 1994. La Regata era brutta quasi quanto l'altra. Come si chiamava l'altra macchina orribile? Dai, quella ormai era barzelletta, la Duna. Non proprio come la Duna, però era brutta forte. In Regata nel 94 da Amsterdam eravamo in 3, nevicava a Colonia e per procedere eravamo in 2 seduti sul cofano in autostrada. E come colonna sonora, come ti va in riva alla città della PFM, con una radio a pile in mano. Un incredibile ricordo favoloso. Andrea. Ve li leggo tutti perché sono... ce n'era uno. Aspetta, dov'era? Questa qua. Avevo 22 anni. Ora ne ho 38. Stavo male ed ero chiuso a casa da mesi per una storia d'amore finita. Passarono 3 amici da casa dicendomi che andavamo a bere una birra. E invece Lecce, Tarifa in 4, in una Renault Clio, 20 giorni di viaggio, vacanza in auto. Lì mi sono innamorata di quella che oggi è la mia compagna. Oggi darei la mia vita per quei 3 amici. Stefano, 80024 0024 oppure 349 238 6666. C'è stato un viaggio in macchina che magari la vita non ve l'ha cambiata, però un pochettino ve l'ha sognata, ve l'ha segnata e magari ve l'ha sognata anche. La linea alla borsa e poi torniamo. Hai avuto paura? Io? No, no, guida bene lei. Ah, oh, ma anche se matto mi dai ancora del lei. E dammi del tuo, no? Ormai ci conosciamo. Va bene. Ah, grazie. Oh! A guarda si se scassa. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto siamo su una spiaggia. È una spiaggia fuori stagione e quindi è triste come solo le spiagge fuori stagione sanno essere. E in più è una spiaggia dell'Adriatico e quindi, come tu mi insegni Paolino, è triste come solo una spiaggia dell'Adriatico fuori stagione sa essere. Però è bella. Sulla destra il mare, molto calmo, con delle ondine che arrivano giusto giusto sul bagnasciuga. Sulla sinistra la tipica fila di palazzi cementati della costa della riviera Adriatica. Non c'è nessuno sulla spiaggia salvo una persona che si trova molto distante rispetto all'obiettivo. Il cielo è azzurrissimo, però è un cielo chiaramente invernale. E l'unica cosa, diciamo, che cattura l'attenzione della foto è una striscia doppia e parallela che corre lungo tutta la spiaggia e credo che sia probabilmente un passeggino che ha lasciato quel segno. E azzardo anche, secondo me questa parte di spiaggia è Cesenatico. Paolo Cola, 42 anni, 40 giorni prima di partire per l'Argentina, qui a Milano Marittima sulla spiaggia faccio 2 passi, io sono qui. Però era di Milano Marittima, ma sembrava di Milano però a farsi 2 passi sulla spiaggia. Vabbè, Milano Marittima e Cesenatico alla fine sono più o meno, quanti chilometri? Saranno 15 chilometri, 20 chilometri, 30, 40 chilometri, insomma sono lì diciamo, più o meno. Sono comunque in provincia di Cesena. No, Rimini fa Forlì Cesena. 349 238 6666. Cesenatico e Milano Marittima sono in provincia di Forlì Cesena, giusto? Cioè è una nuova provincia. Me lo conferma adesso Vittoria Mussini, la stagista Viola, che ormai fa praticamente tutto, lava i vetri, passa il battitappeto, fa tutto qui in studio. Ci farà sapere in che provincia sono Cesenatico e Milano Marittima. Non ci interessa però quella, ci interessano invece tutte le storie di viaggi che stanno arrivando a pioggia, direi. Un viaggio verso un convegno con il mio maestro ordinario di storia, soli, a parlare finalmente senza schemi. tempo, senza schermi, senza schemi, e capire che avrei abbandonato per sempre di lì a poco una vita di ricerca, ma ancora tutto era in corso e tutto era possibile. E poi, sempre in clima di maestri, il viaggio Roma-Firenze, ritorno a prendere il maestro Mario Monicelli. Mi avevano descritto un burbero, l'ho lasciato a casa in piena notte con una grande commozione. Un uomo con tantissimo da comunicare, che vive solo con pochissime occasioni di parlare con qualcuno che non lo vuole semplicemente intervistare. Memorabile. Luca di Firenze. E poi arriva un messaggio invece che riguarda le automobili, perché si parlava della regata e della duna, però qualcuno mi ha scritto: ma la peggiore era l'Arna. Arna e sei subito al fista, questa non ricorda. Effettivamente l'Arna c'aveva una forma da bidet che non era per niente male. Viaggio agosto 1998, Biella con Il della Frontera, Cadiz, 2400 km con la mia ex, su una Ford Escort Station Wagon. Viaggio pieno di aspettative per tornare il sesto anno consecutivo in quella fantastica bolgia dell'Andalusia. Ritorno invece triste, perché forse sapevamo che stava per iniziare il nostro ultimo viaggio insieme. Gabriele, Chieri, provincia di Torino. Andiamo però a sentire le telefonate, andiamo a... l'ho perse. Andiamo a Reggio Emilia, da Benedetto. Pronto Benedetto? Eccomi. Ciao, buongiorno. Allora, ti devo raccontare qualcosa? Sì, mi devi raccontare. Qual è il viaggio che hai fatto? Da dove sei partito? Dove sei arrivato? Allora, e cosa è successo? Un viaggio da Reggio Emilia a Roma, sì, in macchina, con un maggiolino degli anni 60, che aveva circa 20 anni, una macchina che... Io allora avevo 28 anni, quindi una macchina con cui avevo fatto di tutto e di più, una macchina vecchissima, tanti chilometri, con cui avevo scarrazzato un po' tutto il gruppo degli amici, perché ero uno dei primi ad avere la macchina. E il viaggio era una stato? Macchina... Come? Il viaggio dove... scusami, mi ripeti, da dove sei partito e dove sei arrivato? Da Reggio Emilia, da casa mia, a Roma, dove allora stavo lavorando, perché allora in quel momento stavo lavorando a Roma. Ok. E niente, quindi faccio questo viaggio da Reggio Emilia a Roma di un sabato, e con una ragazza con la quale c'era un qualcosa che poteva nascere. E un viaggio tra l'altro molto tormentato, perché in un periodo un po' particolare dal punto di vista sentimentale. Ad Arezzo, pochi chilometri prima del casello, il motore prende fuoco, cioè, e muore la macchina. Ma ha proprio preso fuoco e fiamme? No, proprio il motore, proprio fatto il botto, una fiammata e poi si è spenta. Come è finita la storia con la ragazza? Con la ragazza è stato un bellissimo weekend, passione, romanticismo e altro. Ad Arezzo. Ma è tuttora una mia cara amica. Benissimo. Ma non è continuato. Vabbè, comunque, tutto sommato, non lo so. Il maggiolino l'hai recuperato? No, è morto. Il maggiolino era probabilmente un segnale, l'ho abbandonato da un rottamaro di Arezzo, perché probabilmente... senza neanche pensarci un attimo, perché probabilmente mi sentivo che era venuto il momento che io cambiassi qualcosa, e quindi anche la macchina. Grazie Benedetto, buona giornata. Grazie a te. Ciao, alla prossima. C'è un altro messaggio. Il viaggio mentre cambiavo vita, dopo 5 anni, da Livorno a Pescara, con la macchina carica da scoppiare e il mio amico Matteo dietro con il furgone. 550 km di pioggia e lacrime. Livorno ti fa così. Armando da Pescara. Allora sentiamo subito Armando. Pronto Armando? Eccomi. Ciao, buongiorno. Ciao a te, grazie per aver chiamato. Ma grazie a te, raccontami un pochettino meglio di questo viaggio. Cambiavi vita perché? Per lavoro, una storia di vita abbastanza ordinaria. Tra l'altro ci sono stati dei messaggi bellissimi di persone che mi hanno preceduto. E io sono originario di Pescara, sì. L'ho lasciata nel 1990 per andare all'università e ci sono tornato nel 2006 per lavoro. E gli ultimi anni, 5 anni passati a Livorno, sono stati 5 anni meravigliosi. Tornato a Pescara per mia scelta, quindi in realtà... Quindi non capisco... Erano sentimenti contrastanti. Ok, ma questo, raccontami del viaggio. Sei partito con la macchina e il furgone dietro? Ho partito la macchina, il mio amico Matteo, attualmente mio cognato, con il furgone dietro, e ci siamo fatti sto viaggio in una domenica di pioggia allucinante. Abbiamo preso di 550 km. Penso il 20 ce li saremo risparmiati. Senti, che cosa hai lasciato e cosa sei andato a fare invece? E poi ti saluto. Ho lasciato un lavoro in una pubblica amministrazione e sono andato a fare più o meno lo stesso lavoro in un'altra pubblica amministrazione. Benissimo, ti ringrazio molto. Ciao, buona Grazie giornata. Grazie a te, Matteo. Ciao, alla prossima. Andiamo a Massa Quanti. Emanuele da Capranica, giusto? Provincia di Viterbo. Sì, pronto. Ciao Emanuele. Ci sei? Sì, ciao, sì, Matteo. Ci sono. Raccontami, la tua è una storia particolare, perché voi avete fatto un viaggio di nozze in auto. Sì, sì, noi tutto il viaggio di nozze abbiamo deciso di farlo in auto. Quando stavamo facendo i preparativi, insomma, per il matrimonio, stavamo organizzando, all'ultimo abbiamo lasciato proprio all'ultimo il viaggio di nozze. Tutti quanti dice: ma dai, dice, fai il viaggio di nozze, dove lo fai, boh, boh, boh. E all'ultimo invece abbiamo deciso così, dico, ma quasi quasi, dice, sai che facciamo? ci prendiamo la macchina e partiamo e andiamo dove ci pare. Dimmi le tappe che avete fatto, Emanuele. Noi abbiamo fatto, siamo partiti da, abbiamo fatto, diciamo così, la prima notte di nozze a Viterbo, poi abbiamo fatto Venezia, Innsbruck, Reutte, che sta al confine fra Austria e Germania. Da Reutte abbiamo fatto Monaco, Norimberga, sì. Poi se c'eravamo stufati della Germania, dicevo vabbè basta, abbiamo visto tutto il Tirolo, così, insomma, dico dai basta, allora andiamo in Francia, abbiamo fatto Reims, abbiamo fatto Parigi, siamo fermati una settimana a Parigi e poi dopo siamo scesi giù a una settimana di mare in Costa Azzurra perché in questo viaggio infinito, tra l'altro viaggio di nozze, cosa è successo di particolare? Qualcosa, avete almeno bucato una gomma, no? Guarda, per fortuna è andato, devo dire, tutto non è bene. In macchina non è successo nulla. Senti, in particolare che noi, pronto? Sì, dimmi. Voi... Diciamo così, che comunque di particolare noi abbiamo prenotato gli alberghi, magari che ne so, il momento prima. Ok, giravamo... Senti, dimmi solo, leggo qua che poi non avete più fatto viaggi in aereo, solo in auto. Mai, perché ci siamo troppo divertiti ad andare in macchina. L'abbiamo Va bene, Emanuele, ti ringrazio molto, prendo altre telefonate, buona giornata. Ciao, alla Grazie prossima. Tanto, ciao Matteo. Andiamo da Cesare a Milano, pronto Cesare? Ciao Matteo. Ciao, hai fatto 6.800 km con una Renault 9? No, io sono rientrato dal Marocco, sì? Da solo, zaino, tappeto, in autostop con la famosa regata Station Wagon. Ma non ci credo, ma scusami, in autostop e sei salito su una regata? Sono salito su una regata da Algeciras, sì? Di una coppia di Torino, sì? Mi hanno portato fino a Malaga. Poi da lì ho fatto ancora autostop, ho cambiato due o tre macchine e sono arrivato a Milano con 100 lire in tasca, partito dal Marocco con 100 lire. Scusami, cosa c'eri andato a fare in Marocco? Una vacanza o col tappeto? Il tappeto cosa c'entra? L'ho comprato lì. Ma se avevi 100 lire, come hai fatto? Quando sono partito ne avevo un po' di più. Ah, ok. Mentre rientravo mi erano rimaste 100 lire. Quanti anni avevi? Dunque, nel 1986 ne avevo 22. Senti, e che lavoro fai adesso, Cesare? Adesso guido le betoniere. Le betoniere, quelle che fanno il cemento? Bravo. Ma scusami una cosa, ma le betoniere, poi cambiamo discorso, quando le betoniere in strada, tipo a Milano, muovono, come si chiama, la betoniera, il contenitore, quello che gira? Sì. Sì. Ma non è pericoloso, la botte, non è pericolosa che quella roba accade in movimento in mezzo al traffico? No, perché se chi la conduce è capace di fare il suo mestiere non la fa cadere in mezzo al traffico. Va bene, ok, è arrivato il messaggio. Cesare, grazie mille, buona giornata. Ciao Matteo. Ciao, alla prossima. Ciao. Mi sa l'ultima, giusto Tiziano? Ancora due. Alessandra da Roma, pronto Alessandra? Pronto, sono qua. Sei qua, sei un tu momento Alessandra. Che mi fermo perché sto perché in mezzo al traffico. A Roma. Dai, dimmi però velocemente da dove sei andata a dove. Allora, da Creta, sì. Dove ho vissuto 6 mesi con la mia migliore amica di viaggi. Fino a? Fino a Parigi, passando per Roma. Quanti chilometri sono? Ah, boh. La macchina te la ricordi, Alessandra? La macchina? Una Deschevaux. Una, scusami? Una Deschevaux. Una due cavalli, grazie sì. Mille. Ciao Alessandra, ciao, buona giornata, ciao, grazie a te, grazie a Paolino Corleone, a Tiziano Bonini, a Vittoria Mussini e a Viola, la nostra stagista. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?